È un accordo di intenti che vorrà poi affinato nei dettagli. Comunque, in sostanza, si tratta di poter offrire a tutti i dipendenti Lamborghini, in maniera ovviamente volontaria, un'esperienza di vita intensa, direi, in un'area in cui opera in Italia Emergency, più o meno indicativamente per una settimana, anche se, come dicevo prima, i dettagli vanno ancora costruiti. Comunque il progetto è questo: il ruolo sociale dell'azienda noi pensiamo non si debba limitare esclusivamente all'assunzione di personale con limitate capacità, ma deve offrire anche ai propri dipendenti la possibilità di toccare con mano esperienze di vita reali, non certo a Kabul ma anche in Italia, dove anche in Italia abbiamo delle esperienze abbastanza significative e formative. Quindi l'Italia non è solo Lamborghini, un bel ambiente di lavoro, purtroppo l'Italia è anche qualcos'altro, dove Emergency sta sviluppando progetti, sta tentando di dare risposte che non sempre altre istituzioni riescono a dare, e quindi, perché no, anche i dipendenti Lamborghini possono dare il loro contributo insieme ai volontari di Emergency. Come si è arrivati a questo accordo? Come è nata appunto la sensibilità per arrivare a questo accordo? Guarda, intanto abbiamo avuto ospite qui qualche tempo fa Cecilia Strada, e con lei abbiamo fatto anche un'assemblea, lei ha potuto parlare delle esperienze di Emergency, abbiamo incontrato i membri del board, e in quella sede si è, fra una parola e l'altra, si è appunto cercato di una riflessione, è nata, si è cercato di dare anche vita a questa idea. È nata appunto come idea ed ora si sta piano piano concretizzando sempre di più. Chiaro, dobbiamo ancora lavorare su dei dettagli, sull'aspetto della logistica, sull'aspetto della sicurezza, perché noi vogliamo poi che i nostri colleghi vadano in tutta sicurezza. Anzi, penso che il pilotino, così lo chiamiamo noi, la prima esperienza, coinvolgerà sicuramente anche la rappresentanza sindacale. Noi per primi vogliamo sperimentare questa cosa, perché crediamo nel valore sociale di questo intervento. In sostanza, i lavoratori Lamborghini si trasformeranno in volontari di Emergency? Sì, ovviamente volontari, cioè non è che obblighiamo qualcuno ad andare. Chi se la sente, chi vorrà, potrà dare il suo contributo. Sì, volontari di Emergency, questa ci sembra un'ottima definizione, volontari proprio nella pratica, nel poter dare un contributo tangibile e non solo la maglietta, l'acquisto della maglietta, del gadget o qualcos'altro che si può far sempre comodo, ma è molto più qualificante, molto più formativo poter essere sul campo e dare un proprio contributo operativo. L'accordo riguarda anche la dirigenza, no, di Lamborghini. Sì, l'abbiamo fatta insieme. Questa idea è condivisa, non è un'idea solo di noi delegati RSU insieme ad Emergency, insieme ai funzionari esterni, è un accordo condiviso con la dirigenza. Anzi, devo dire che la dirigenza ha dato anche un là significativo, un'impronta significativa a questa, è partner reale, non è stato coinvolto e suo malgrado deve, no, è stato proprio entusiasta nel condividere con noi questa cosa. E questa è una cosa molto curiosa, perché se noi pensiamo al marchio Lamborghini, pensiamo al lusso e a un mondo che è molto distante in realtà da quelli che sono invece gli utenti, diciamo così, di Emergency. Sì, è vero, però devo dire che non so il merito di chi sia, forse di tutti. Siamo in un'azienda abbastanza piuttosto sensibile ai temi sociali. A Lamborghini, sì, tu pensa per esempio all'impatto ecologico. Lamborghini è un'azienda a impatto zero, seppur costruiamo bolidi che inquinano, ahimè, è vero, un numero limitato se vuoi, ma inquinano, poi di contraltare questa azienda è a impatto zero perché è un sistema di trigenerazione, eccetera. Quindi un'attenzione verso il sociale, un'attenzione verso l'ecologico, per quello che è possibile fare, ovviamente. E direi che ci spendiamo affinché, insomma, anche noi nel nostro agiamo in una maniera sostenibile e sociale. E anche questo fa parte, appunto, anche questo accordo con Emergency fa parte di un modo di essere, di un modo di stare sul territorio. Io credo che vada ad onore veramente di tutti quelli che si stanno impegnando in questa esperienza.